24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui, incredibilmente vero anche oggi. Allora, vi siete abituati al nostro nuovo orario? Sono le 6:32 minuti e il nostro alpino Peter Bescapè è lì in regia, pronto. Il nostro Alessandro Longoni è lì in redazione, lo vedo al di là del vetro, come si diceva negli anni 50, se esistevano le radio private, che non esistevano. Siamo qua fino alle 9, in diretta, parleremo di tanti argomenti. Noi alle 8:30 parleremo anche di questa vicenda di Beppe Grillo, gli insulti, non gli insulti, il linguaggio di Beppe Grillo, ma di qualcosa di insulti tra poco sentiremo, perché vorremmo farvi sentire un Vendola, secondo me, eccezionale, ieri. E poi parleremo anche della Regione Sicilia, avremo ospite oggi Claudio Fava, alle 8:20, l'esponente candidato a Regione Sicilia, ma tutto questo più avanti. Prima, come di consueto a quest'ora, è bene opportuno aprire il nostro bar a Radio 24. Sempre fa un po' fatica, no? Tira su questa bella saracinesca, un po' pesante. Bar che vedo già affollato qua, Vedo già i primi a presentarsi, chissà se per un caffè, chissà se già svegli. Alessandro Giglioli, buongiorno. Buongiorno, caffè pronto e pioggia, diluvio su Roma, quindi non so come da voi, ma qui piove parecchio. Sì, piove. Adesso dovrei girarmi e non si sente più al microfono per vedere al di là del vetro. Però pioveva fino a poco fa, ma pioveva poco, un po' sì, un po' no. No, Longoni mi fa che non piove più, è arrivato più tardi e quindi ha smesso di piovere. Alessandro Giglioli dell'Espresso, ma anche Piovono Rane e il suo blog seguitissimo. Saluto anche l'autore di un altro blog molto seguito, Do Blog, Diego Destro. Buongiorno Diego. Buongiorno a tutti. Milano niente pioggia. Infatti vedi, non piove a Milano. Infatti anch'io sto a Milano, ha smesso di piovere. Vediamo, piove in Cina, piove nel sud-est asiatico, chi lo sa. Intanto è il più fortunato di tutti noi, Antonio Taglia, buongiorno. Buongiorno a voi, mi trovo a Singapore piove, c'è una bellissima temperatura. Bella voce squillante, Che ore sono, Antonio, lì da te? Qui è le 12 e mezzo, cioè quasi l'ora di pranzo, no? Vabbè, corrispondente per l'agenzia Agi dalla Cina, si trova a Singapore in questo momento. Allora, intanto vi faccio un quiz veloce. Che studi avete fatto, Alessandro Giglioli? Tu che studi hai fatto? Classico, scientifico, cosa hai fatto? Io ho fatto il Berchet di Milano e poi la filosofia della statale, poi vabbè un corso post-universitario di giornalismo. Vabbè. Quindi studi abbastanza umanistici, allora sei fregato tra poco, perché ti devo chiedere una cosa. Diego Destro, tu? Classico e giurisprudenza, anche Antonio pure. Io classico e giurisprudenza. Siete fregati. Sentite cosa ha detto Nichi Vendola, governatore della Puglia, ieri sul grande tema su cui si dibatte in politica, il tema più importante della politica di questi anni, gli insulti. Sentite. Ogni volta che mi affaccio su Facebook ho un grande dolore, perché c'è il contrario di quella che è stata la mia educazione. Ci si insultava con citazioni in latino e greco, così avevo imparato a casa mia. Ora, devo dire, è una vetrina della volgarità, senza limiti. È stata anche in qualche maniera instillata dalle televisioni, dai talk show, no? Avete sentito, Alessandro, il dolore ogni volta che mi affaccio su Facebook. Anzi, poi detto da Vendola, Facebook, obiettivamente. Il dolore, capito? Ci si insultava in latino, forza, l'insulto in latino che ti viene, adesso me lo devi dire. Tu, anche tu, probabilmente la tua generazione, ti insultavi in latino e greco, no? Come no? No, tendevo più sul dialetto milanese, che essendo cresciuto a Porta Ticinese, però se è necessario qualche... Noi avevamo una serie, al liceo, una serie di giochi di parole sugli insulti in greco e sul... e sulle volgarità in greca, ma non siamo in fascia protetta. Ma tanto in greco antico, poi chi vuoi che lo capisca? Diciamo tris, kai tetrachis, orni, zalabon, panta, kaka, feugetai, non è proprio un insulto, sicuramente l'hai capito, no? Ma insomma, adesso... Se tocchi tre o quattro volte i genitali, tutte le cose cattive se ne vanno. Guarda, se fai insulti in latino su Google... ti viene, ma la risposta migliore, ma io non ci volevo chiedere, tu vadis facere innatis, e puoi immaginare anche questo, cosa voglio dire, tu vai a fare, vabbè. Tu tutta vita. Il classico, insomma. Vabbè, ma c'è questa roba degli insulti e la rete. Ecco, ecco questa è la cosa più interessante. No, perché è lì che Vendola voleva arrivare, no? La parola maffaccio già mi ha un po' innervosito, cioè non è che uno si affaccia su Facebook, uno forse partecipa alle conversazioni su Facebook se vuole far parte del reale. Nicky Vendola, che è simpaticissimo, forse in questo ha peccato di una tipica cosa di cui peccano tanti politici, e cioè quella di considerare Facebook una cosa strana e diversa dalla realtà. Facebook, sì, come la rete, secondo me, fa parte del reale. Se lui va, se io vado al chiosco qui sotto, chiosco che sta aprendo adesso, dove spessissimo mi vado a prendere il caffè anche a quest'ora con la mia bambina piccola quando si sveglia presto, non è che trovo una realtà diversa da quella che trovo su Facebook, in termini però di turpiloquio e anche di turpiloquio. Però è vero che la rete, non so se anche Diego Destro è d'accordo, la rete avvicina, no? C'è questa possibilità adesso con la rete, con Twitter, con i social network, di andare appunto e frequentare, partecipare a questi forum, a partecipare ai social network e, non so, dire a Vendola direttamente, e uno sa che lo leggerà probabilmente Nicky Vendola in persona o chi per lui, cioè nel senso altri politici, allora uno si sente libero di poter dire, azzerare tutte le distanze e poter dire quello che vuole. Meno male. Sì, è una cosa, è forse l'aspetto più bello e interessante della rete, che unisce davvero, come dici tu. Tra l'altro, quando Vendola si affaccia su internet, io non so se si affaccia lui o qualcun altro al suo posto, però mi piacerebbe tanto vederlo, a me Vendola, davanti a un computer, davanti a Facebook, mentre si affaccia e prova dolore in questa vetrina. Cos'è che ha detto delle volgarità? Provo dolore, sì, quando l'ha detto sembrava proprio che incarnasse il dolore, provo dolore. A me viene sempre in mente Checco Zalone ormai quando sento Vendola. Addirittura, faccio fatica ormai a capire se è l'imitatore o è l'originale. Addirittura, beh, questo è un giudizio politico, sappiamo, no? Molto, molto tranciante. Addirittura, Giglioli, siamo a questo livello. Sembra Checco Zalone per Diego Destro. Così scadiamo. Zalone, quando fa Vendola, a me fa morire, devo dire, fa impazzire. Il problema è che Vendola non si è reso conto che sta diventando la parodia di Zalone. Ma io volevo esercitarmi un po' sull'insulto. Qua adesso sembra un massacro di Nicky Vendola. È un problema trasversale, diciamo, ecco, che non riguarda solo Vendola. No, vabbè, che tra l'altro. Vendola ieri ha dato l'altra vera notizia della politica di questi giorni, ha detto mi sposo, non si sa come, con che legge, con che insomma, sulle unioni ovviamente, non c'è una legge in Italia sulle unioni omosessuali eccetera, però mi sposo, ha detto, alla mia età è un'età in cui devo pensare a sposarmi. Ovviamente l'ha fatto anche qui con una per voler fare una forzatura politica, no? Per portare il tema sull'unione omosessuale. Vorrei andare da Antonio Taglia, succedono queste cose in Cina, dove c'è il partito unico, ci si può insultare? Beh, lì via web c'è un po' di controllo in più rispetto che da noi. È ammissibile tutto questo, per esempio gli insulti, il dirsi quello che si pensa in faccia? No, sicuramente non al nostro livello. C'è da dire che però, insomma, l'ultimo anno è stato caratterizzato da una serie di scandali che sono montati anche e soprattutto grazie al web, e che poi stanno portando, insomma, una transizione politica tutt'altro che tranquilla. Ricordiamo che fra, insomma, qualche settimana ci sarà il nuovo congresso del Partito Comunista Cinese, che definirà la prossima leadership per i prossimi 10 anni. Ci si insulta nei microblog, questo sicuramente, ma soprattutto si diffondono le informazioni che, per quanto la rete cinese sia controllata, ormai filtrano comunque o vengono fatte filtrare. Cioè, è possibile dire qualcosa, non so, del presidente Hu Jintao, che magari sia irriverente, No. Bisogna utilizzare una serie di giochi di parole molto complicati, oppure dei nomi in codice. Per esempio, non lo so, il temutissimo capo della sicurezza, Zhou Yongkang, che è proprio il capo di tutti gli apparati della sicurezza, siccome il suo nome ricorda i caratteri e i suoni di una marca di spaghetti, viene chiamato lo spaghetto. Ah, ecco, cioè i modi più classici per aggirare la censura. Bella questa cosa, insomma, lo spaghetto, che è il capo della sicurezza in Cina, no? Dell'agenzia di sicurezza. E, tra l'altro, anche noi, ovviamente, io non l'ho detto, ma siamo su Twitter, siamo tutti connessi, ci trovate come 24 Mattino, come Alino Milan. Oggi il giornale fa questo, e non so se Diego, Alessandro e Antonio, un quiz. Diego, vediamo se indovini subito. Chi ha detto queste cose qui? Aledanno, Brunettolo, Forminchioni, Entero Gelmini, Rigor Montis, vabbè, qua è facile, Diego. Vabbè. Beppe è Barbuto? Sì. Sì, pare sembra indovina chi. Sì, allora, Beppe Grillo. Noi ne parleremo alle 8.30, sembra lui un po' il re dell'insulto, comunque, dell'apostrofare, dell'appellare i rivali politici in qualche modo. Adesso si lamenta, dice mi vogliono anche eliminare, Diego. Questo è dato di fatto. Questo è, come dire, comico. Quando si tratta di Beppe è così. Io tra l'altro non ho ancora capito cosa vuole fare da grande Beppe Grillo, se vuole fare il comico o il politico, le due cose. Oddio, ultimamente la classe politica attuale ha cercato di rendere compatibili i due lavori, però in teoria non dovrebbe essere così. Quindi la domanda è: cosa vuol fare Beppe da grande? Continuare a fare il comico o fare politica? Beh, però dovrebbe... mi pare che sia chiaro, cioè lui politica in prima persona no, questo l'ha anche già detto, ha una condanna, non potrebbe neanche andare secondo le sue stesse regole in Parlamento, però insomma il programma del Movimento 5 Stelle c'è, ci sono sindaci, ormai sembra abbastanza avviato, no, il Movimento? Sì, è avviato bene e fa anche bene a volte a livello locale. A livello nazionale mi sembra tutto molto confuso, non ho neanche capito come potrà funzionare ad esempio la scelta del programma, che quello che c'è è ridicolo. Io non so se avete mai letto il programma del Movimento 5 Stelle, sicuramente sì, sì. C'è tutto e il contrario di tutto dentro. Quindi non ho ben chiaro quelli che saranno i meccanismi, quindi vedremo. Io non lo so se lui vuole fare un partito, cioè vuole continuare a fare un partito o continuare a fare un sito ad esempio di e-commerce, perché io quando ad esempio apro il suo sito mi viene quasi distinto prendere il portafoglio e tirare fuori la carta di credito, perché mi sembra di trovarmi davanti a un mega portale di commercio elettronico. Quindi, però mi sento di difendere. Cosa dovrebbe fare? Cioè vende i suoi spettacoli, ha guadagnato per una vita facendo spettacoli, la gente pagava il biglietto, andava a vedere i suoi spettacoli, che dovrebbe fare? Ma certo, ma la priorità in questo caso è vendere spettacoli, quindi vendere DVD, i suoi libri, i suoi e del suo gruppo, oppure proporre un modello di governo alternativo del paese, dei comuni, delle città. Deve scegliere questo, Beppe, perché non è ben chiaro cosa vuole fare, secondo me. Poi mi sembra che ultimamente soffra parecchio di mani di persecuzione, perché il fatto che si lamenti lui degli insulti è davvero comico. Lui che ha fatto dell'insulto una sua caratteristica. Sì, questo è un po' paradossale, Sì. 24 Mattino. Eccoci nuovamente al nostro bar di Radio 24. Allora, volete sapere come aprono i giornali? Aprono tutti sulla situazione finanziaria. Merkel contro la finanza speculativa, così il Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera il piano antispread di Draghi, Repubblica, Draghi, così la BCE comprerà i bond. Di politica solo il Fatto Quotidiano, Grillo e Renzi, gli incubi del PD. Il titolo più bello è il manifesto, no? Vorrei su questo, Alessandro, asservire il popolo. Questa c'è la faccia della Merkel, no? Alessandro Giglioli, cosa ha detto la Merkel? I mercati distruggono la ricchezza del lavoro, arricchiscono pochi ai danni di molti, non sono amici del popolo. È diventata di Occupy Berlino, no? Anche la Merkel, no, non credo. Io, no, di Occupy no, però sicuramente, come dire, ha fatto suo una tradizione, tradizione europea, la tradizione della prevalenza del cittadino sul mercato. Vedi, è giustissimo secondo me parlare di Grillo, per carità, è interessantissimo, lui ormai detta l'agenda politica e porta tutti gli altri interlocutori. È abile, porta gli interlocutori nel suo campo. A me però non interessa moltissimo sapere se Grillo ha il complesso di persecuzione, a me interessa capire perché Grillo e il suo movimento hanno riempito palesemente un vuoto della politica, altro che antipolitica, e hanno riempito un come dire, con le proprie parole d'ordine. Io non sono tanto d'accordo con Doc, il programma del Movimento 5 Stelle è vuoto, poi se vuoi ne parliamo anche di questo, fermo restando che non sono e non sarò mai un elettore del Movimento 5 Stelle, però è un po', secondo me, sbagliato anche dal punto di vista comunicativo dire che è vuoto laddove invece abbiamo visto programmi strapieni che poi non hanno portato a niente. Ma il discorso è che oggi, in realtà, secondo me, molto semplicemente, tu mi hai portato sulla Merkel, il confronto vero politico nel senso che impatta nelle nostre vite, no? Al di là del bla bla su cui noi giornalisti campiamo, è giusto che sia così, però il discorso politico vero è che siamo di fronte a una verticalizzazione dello scontro fra teorici del mercato senza lacci e lacciuoli, come dicono loro, fra teorici, basta vedere cosa ha detto Romney alla convention, e invece un modello che è l'opposto, un modello che, se vuoi, chiamiamo keynesiano, un modello che si basa sul principio in base al quale maggiori sono le ineguaglianze, più difficile la ripresa. Avete sentito keynesiano nel bar di Radio 24, che non è un insulto in greco e in latino, no? Non è un insulto, anzi, secondo me è un complimento. Grande, però ognuno può avere la sua opinione in merito. Insomma, io credo che la Merkel abbia posto la questione che, su cui dovrebbe forse anche porsi la nostra campagna elettorale di qui al 2013. Ma guarda che allora ti faccio arrabbiare, sono le stesse cose che va dicendo Tremonti da un po' di tempo, no? Ma guarda, scusami, Tremonti nell'ultimo anno e mezzo ha detto tutto, gli ultimi tre anni ha detto tutto il contrario di tutto, ma io sono felicissimo che Tremonti abbia riscoperto il socialismo. Mi sembra che durante il suo mandato non l'abbia molto messo in pratica, ma comunque, al di là di questo, il principio di base è se accettiamo che sia ineluttabile, no? Perché la parola è questa, ineluttabile il dominio dei mercati e della troica, oppure se la politica può governare l'economia. Questa è la domanda, chiave. Allora, 2013. Poi gli insulti di Grillo vanno benissimo, perché, ma sono a riempire il vuoto di dibattito concreto, perché riguarda Ma è chiaro che il successo di Grillo è direttamente proporzionale all'insuccesso, al disastro di consensi che hanno i partiti tradizionali a questo livello. Allora, però, vorrei farvi sentire, soprattutto da Antonio, poi da Antonio Taglia, vorrei capire come tutto questo, la situazione europea di crisi, viene vista anche dalla Cina. Ma sentite cosa ci ha regalato Mimmo. Mimmo è un cameriere da 40 anni al ristorante Piccola Roma, dove molti politici vanno, frequentato da molti politici, conosce un po' tutti, anche il grande Giulio Andreotti, a cui serviva il cocomero. E Mimmo è uno che, quando vede i politici, non si lascia, non frena la lingua. Allora, per esempio, che ne pensa dei parlamentari, Mimmo? I parlamentari sono come i cinesi, sono tutti uguali. Hai capito, Antonio Taglia? L'hai sentita bene? Sono come i cinesi, i parlamentari, tutti uguali. No, mi verrebbe da rispondere con un'altra battuta, nel senso che non è vero che i cinesi sono tutti uguali, però mi sembra che così come in Cina si fa politica per nomina e si viene nominati, con l'attuale legge elettorale che abbiamo in Italia anche i nostri politici alla fine vengono nominati. In Cina uno fa, cioè c'è tutto un percorso all'interno del partito, non è che può fare chissà che. No, sì, appunto, c'è una sorta di cursus honorum, sempre per restare sul latino, e che insomma alla fine ti permette di fare una carriera politica da funzionario, se riesci a evitare gli scandali e i colpi della fazione avversa. Insomma, nell'ultimo periodo se ne sono visti parecchi. Sì, abbastanza. Senti, ma come hai visto tutta questa situazione lì da quelle parti? Cioè questa situazione dell'euro che può rischiare, rimaniamo nell'euro, non usciamo dall'euro, ve ne frega qualcosa alla gente del popolo, frega qualcosa dal punto di vista economico? Certo, sì, nei rapporti internazionali, nei rapporti commerciali, finanziari è importante. Ma ai cinesi interessa qualcosa di questa vicenda europea? No, diciamo, frega niente. Sicuramente non è il genere di notizia che occupa le prime pagine dei giornali, se non per fare un po' di propaganda, cioè per dimostrare quanto il modello occidentale stia creando dei problemi e quanto invece, insomma, il modello cinese continui a funzionare. Ecco, questo occupa i giornali e viene anche discusso. Poi a livelli, insomma, di funzionari c'è una grossa preoccupazione per quanto sta succedendo in Europa, perché ricordiamo che comunque l'Unione Europea è il primo partner commerciale della Cina. Ah, no, ma questo sicuramente, questo sicuramente. Diego Destro, sì. Do Blog, sono tutti uguali come i cinesi, come dice il nostro Mimmo, i parlamentari, vabbè. Ma no, lui, tutti no. uguali no, però ultimamente aiutano i pensieri come quello di Mimmo, la nostra classe politica. Ma sulla Merkel posso dire una cosa? Come una no? Le parole che abbiamo sentito le ha dette ieri una festa del suo partito, ma dopo un litro di birra, dobbiamo ricordare questo aspetto particolare. Vabbè, ma tu addirittura adombri il sospetto che la birra, se ho visto anch'io dei boccaloni di birra. Ma no, che la birra fa bene, insomma. Ah, ecco, vede, la birra fa bene, l'ha fatta rinsavire per Alessandro Giglioli. Sa quante ne abbiamo avuto a Tremonti, Ma perché, cioè, cosa c'hai da contestare su questa cosa, Diego, che i mercati non sono al servizio dei popoli? No, no, ma un certo fondo di verità c'è, ma che lo dica la Merkel è ancora comico. Tra l'altro l'ha detto alla sede, alla festa del partito, sì. Che è più anti-europeista, no? Cioè è andata lì a dire noi siamo nell'euro, dobbiamo salvare la Grecia e la finanza non aiuta i popoli. Non ti piace? La birra secondo me ha influito. La birra, è stata la birra. Vabbè, invece io vi offro un caffè, ovviamente batto lo scontrino, è offerto ma batto lo scontrino. È che qua Equitalia è già alle porte e la teniamo fuori, ma lo scontrino c'è anche se tutto offerto. Grazie a voi, vi ritroviamo spero presto. Alessandro Giglioli, Piovono Rane, Do Blog, cioè Diego Destro, e Antonio Taglia, corrispondente dell'agenzia AGI dalla Cina. E allora vi siete destati alle 6.30 per essere con noi nella nuova edizione da ieri a partire dalle 6.30, oppure ci avete raggiunto adesso. Comunque siete i benvenuti, eccoci qua. 24 mattino continua fino alle 9. Vi ricordo oggi che parleremo alle 8.30 di Beppe Grillo, del Movimento 5 Stelle, gli insulti nella politica, eccetera. Avremo ospite invece alle 8.20 Claudio Fava di Sinistra Ecologia e Libertà, è il rappresentante che si candida alla regione Sicilia. Tutto questo più avanti, però potete scriverci 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci seguite su Twitter se volete, @24mattino, oppure @AlinoMilan, quello sono io. E allora siamo pronti? A che cosa andiamo a fare? Che andiamo a fare? A leggere i giornali come al solito. Eccoli qui. Questo martedì 4 settembre. I titoli dei giornali sono molti declinati a quello che ha detto Angela Merkel ieri, un po' a sorpresa, vale a dire questa frase che farà molto discutere: i mercati sono contro i popoli, la finanza è contro i popoli. E allora il Sole 24 Ore, tra l'altro il Sole 24 Ore che oggi esce a 2 euro con allegato il libro Il Lavoro, come affrontare e superare la grande crisi, se lo volete, un tema ovviamente in questi tempi molto molto delicato. Il Sole 24 Ore, come detto, apre Merkel contro la finanza speculativa, mentre il Corriere della Sera, il piano antispread di Draghi. Per Repubblica, Draghi, così la BCE comprerà i bond. La Stampa, Draghi sia l'acquisto dei bond e la Merkel attacca i mercati. Anche per l'Unità, Europa passa la linea Draghi, mentre il Messaggero, Draghi sia l'acquisto di bond. Eccolo qui il manifesto, c'è Angela Merkel: a servire il popolo, i mercati distruggono la ricchezza del lavoro, arricchiscono pochi ai danni di molti, non sono amici del popolo. Questa è Angela Merkel che dice il manifesto non è passata a Occupy Berlino. Libero, battere Equitalia si può, ecco come. Mentre il giornale attacca così: Monti ci manda tutti in miniera, il governo pensa ai 500 minatori ma mette in ginocchio 60.000 piccole imprese. Il Fatto Quotidiano invece un'apertura politica: Grillo e Renzi, gli incubi del PD. Io però voglio partire da una notizia che oggi trovate molto sviluppata dai giornali. Ieri ci sono stati i funerali a Milano del cardinale Carlo Maria Martini, ex arcivescovo di Milano. Allora, i giornali pongono l'accento, come succede a 48 ore, come hanno fatto molti quotidiani, su quello che è definito anche oggi dal manifesto il cardinale più scomodo per la Chiesa cattolica. Certo, l'ultima intervista, che suonava come una sorta di testamento, che il cardinale Martini ha rilasciato e che è stata pubblicata dal Corriere della Sera proprio all'indomani della sua morte,

Questo l'ammontare del risarcimento al quale il giudice della decima sezione del Tribunale Civile di Milano, Damiano Spera, ha condannato non solo la squadra di Moratti, ma anche in solido la Telecom nell'era Tronchetti-Provera. E dunque aveva chiesto, credo, 12 milioni di euro a Telecom e 9,2 all'Inter, quindi voleva 20 milioni di euro più o meno, anche di più, Vieri, per danni patrimoniali, biologico e lesione alla privacy, perché gli aveva scatenato una depressione. E spiare Vieri costa 1 milione a Inter e Telecom. Questo è il dato di fatto. Lo trovate così anche come titolo sul giornale, anche il quotidiano nazionale: 1 milione di euro a Bobo Vieri, spiato dall'Inter, è andato in crisi. Anche Repubblica: Vieri spiato e pedinato per 4 anni. Inter e Telecom paghino 1 milione di euro. Questo è il dato di fatto. Ospitiamo oggi un politico, si tratta di Claudio Fava, che saluto, buongiorno e benvenuto Fava. Buongiorno. Claudio Fava, ex eurodeputato, è il coordinatore nazionale di Sinistra, Ecologia e Libertà, è candidato alla regione Sicilia. Lei, Fava, conta sull'appoggio di chi per il momento, politicamente, oltre ovviamente a Sinistra, Ecologia e Libertà? Federazione a Sinistra, Italia dei Valori e le siciliane e i siciliani. Senza di loro non si diventa presidenti, non si diventa buoni presidenti in una regione complicata come la Sicilia. Anche perché di recente un sondaggio pubblicato dal Fatto Quotidiano rivelerebbe che lei sarebbe addirittura in testa all'interno del centrosinistra, ovviamente, tra i candidati, quindi niente Crocetta, ma Claudio Fava. Lei ci crede? Il sondaggio, bontà sua, dice che sono in testa e basta. In testa e basta. I candidati del centrodestra. Ma lei ci crede a questa cosa? Perché politicamente è appoggiato da forze politiche che non hanno una percentuale che... Ma io credo che siamo a un punto della nostra storia politica e anche civile per cui gli elettori non chiederanno permesso ai vecchi partiti di riferimento prima di andarsi a scegliere il nuovo presidente. Dopo 12 anni gestiti prima da Cuffaro e poi da Lombardo, con una regione sull'orlo di un default economico e soprattutto morale, io credo che i cittadini vogliono riconoscersi in una proposta di alternativa, e se questa, come dire, affidabilità è finita a scatta, non sono le somme delle bandierine che determinano la vittoria o la sconfitta di un candidato. Cioè lei sta dicendo che siamo in una fase politica in cui, lo abbiamo visto anche per esempio in molti sindaci, hanno potuto vincere i De Magistris, i Pisapia, ne cito a memoria, cioè alcune persone che non erano accreditate della vittoria e non sono assimilabili a un partito vero e proprio. Anche essere assimilabile a uno o a più partiti, ma non è la somma algebrica della forza di quei partiti che determina la vittoria dei sindaci e dei presidenti. Orlando rappresentava due piccole forze politiche e ha vinto col 74% a Palermo. Credo che siamo in un tempo in cui c'è un voto finalmente autonomo, libero e forse anche più responsabile, perché si intende che la scelta ricade direttamente sulla qualità della vita di ogni cittadino, e in questo mi sento favorito dal fatto che gli altri candidati sono tutti, anche se in forme diverse, espressione di una continuità col passato, perché i partiti che li appoggiano sono partiti che hanno governato in questi anni. L'unica proposta politica che intende voltare pagina e mettere da parte le forze di governo che hanno fino adesso mal amministrato la Sicilia è la mia, e questo credo che abbia... stia ottenendo un riconoscimento legittimo da parte dei cittadini. Allora, tra poco magari raccontiamo anche un po' della storia personale di Claudio Fava, visto che gli ascoltatori non la conoscono. Lei però in un'intervista di recente ha detto: non voglio vincere facendo favori a nessuno, non sono disposto a fare alcun tipo di favore, e la domanda era provocatoria, a dire: ma come, in Sicilia spesso la politica si fa con questo ti voto ma tu in cambio mi dai qualcos'altro. Lei pensa davvero di vincere con questa politica intransigente del non faccio favore a nessuno? Io penso che l'unico modo per vincere nel senso di costruire una proposta di governo che sia autonoma dai centri e dai comitati di interessi, vincere e basta, vincere ostaggio dei gruppi di potere, vincere avendo torme di clienti ai quali devi riconoscere il loro voto e la loro obbedienza, e non è vincere, è restare dentro un sistema, un ingranaggio malato di una politica che non ha garantito un solo diritto. E non sono capace io di far favori, ma credo che nessuno possa proporre un cambiamento reale continuando a fare la politica una merce di scambio, anche perché la funzione della politica dovrebbe essere prendersi cura della qualità della vita e dei diritti dei cittadini, di tutti i cittadini. Il favore è un concetto che si declina al singolare e nei confronti di un individuo, di un elettore, di un cliente, ed è quello che è accaduto in questi 12 anni, solo che adesso non c'è nemmeno la forza economica e politica per continuare a fare favori per molti, il sistema è collassato ed è la ragione per cui si può costruire una strategia non di testimonianza ma vincente. Sì. Se c'è una persona che testimonia, diciamo, la lotta alla mafia personificata, questa può essere lei, questo si può dire. Claudio Fava è figlio di Giuseppe Fava, scrittore, giornalista, ucciso nel 1984 dalla mafia. Le chiedo però, dall'altra parte non so, c'è per esempio Rosario Crocetta che dice: io sono il sindaco più antimafia, perseguitato dalla mafia. Non rischia questa parola di diventare una sorta di proclama, mi permetta, una parola vuota, sì, che uno utilizza perché sì. per diventare presidente in Sicilia bisogna dire: io sono contro la mafia. Ma guardi, essere contro la mafia non può essere il tintinnare delle medagliette appese al petto o un titolo scritto su un biglietto da visita, deve essere la precondizione politica. Oltre questa precondizione poi arriva la politica, le scelte politiche. Anche Cuffaro faceva i manifesti per tutta la Sicilia dicendo la mafia fa schifo e poi Poracci è finito in galera per favoreggiamento mafioso. Voglio dire, è una condizione che non è una discriminante sufficiente. Poi bisogna capire davvero in che modo sei capace di aggredire i grumi di interesse clientelare, affaristico, mafioso che in Sicilia ci sono. Che continua a rappresentare una parte della dote politica che è stata utilizzata da tutti i governatori e da tutti i ceti di governo. E devi riuscire a rompere operare una rottura che è culturale, clientelare, e in questo forse tu costruisci un'autentica politica antimafiosa, cioè liberare la politica da lacci e lacciori degli interessi privati. Per esempio, stringere la mano a un mafioso, a lei può essere capitato nella vita? Perché sa, uno non è che possa... Ma guarda, io non sono in odore di santità, però siccome sono siciliano, faccio il giornalista e faccio politica da un terzo di secolo, per cui ho anche come abituato a leggere il linguaggio dei gesti e dei dettagli, e credo che non sia accaduto, ma non è accaduto perché impari a capire quali sono gli elementi di vischiosità, di rischio che ti propone una società complessa come quella siciliana, che non va demonizzata, va soltanto interpretata nella sua complessità e va rappresentata nella sua parte migliore. Se tu decidi di rappresentare tutti perché vuoi essere garante di tutti, finisci per non garantire nessuno se non i tuoi diretti clienti. A questo proposito, la annosa questione, tanto dibattuta, sulla trattativa Stato-mafia, è una minchiata, come dice Giuliano Ferrara? non è una minchiata, è un furto di verità, che è una rapina che hanno subito tutti gli italiani, anche Giuliano Ferrara, anche se forse a lui interessa poco, e cioè scoprire 20 anni dopo che molti con autorevoli funzioni istituzionali hanno mentito e che in questa semplificazione della storia non c'erano soltanto i carnefici mafiosi e gli eroi, le vittime della mafia, ma c'era anche un pezzo di Stato parallelo, deviato, ma pur sempre rappresentazione degli italiani, che ha lavorato accanto a quelli che hanno organizzato le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. E sapere che Falcone e Borsellino sono stati accompagnati alla morte non soltanto dalla mafia, anche da un pezzo dello Stato che queste stragi le ha benedette e ne ha utilizzati i risultati, è una domanda che non si devono fare solo i magistrati palermitani, devono farsela in termini appunto di debito di memoria a tutti gli italiani. Ma si dice però la storia, appunto questa è storia, ma cercarla per via giudiziaria forse non si fa così per i critici, no, di fronte alle iniziative della Procura di Palermo. Non solo per via giudiziaria, i magistrati devono fare questo lavoro perché sono, come dire, pagati per esercitare in forma istituzionale una ricerca della verità con il codice in mano, ma non è la verità giudiziaria che basta, cioè la verità di una antica e solerte compromissione tra pezzi delle istituzioni e gli interessi mafiosi che questo paese ha portato avanti e ha tollerato per molto tempo. Ancora adesso noi abbiamo all'interno delle istituzioni degli onorevoli parlamentari che sono imputati o condannati per mafia, che noi tolleriamo da clandestini alla rappresentanza del popolo italiano in quelle istituzioni come se nulla fosse. Che mi fa del giustizialista, perché non in via definitiva. No, stai scherzando, dell'utile non in via definitiva, e come non in via definitiva. Beh, no, è stata rimandata poi la Cassazione al secondo grado, si vedrà. No, Dell'Utri ha già condanne passate in giudicato, e in ogni caso ci sono dei codici etici che non sono stati approvati alla Procura di Palermo, ma dai parlamentari della Repubblica all'unanimità, alla Commissione Antimafia alcuni anni fa, e che prevedono che c'è una soglia, come dire, di pudore, di decenza, che va ben prima della condanna definitiva, che può arrivare dopo molti anni di giudizio. Se c'è il sospetto grave, comprovato attraverso un rinvio a giudizio, di essere coinvolto in un processo di mafia con accuse pesanti, quella codice di autoregolamentazione etica prevedeva un passo indietro di eletti e candidati, naturalmente non è stato mai applicato da nessun partito. No, vabbè, ma le sentenze passate in giudicato, ma a me non risulta che sia passata in giudicato quella di Lutri, che abbia condannato. Precedente sentenza, precedente sono sentenza. State altre, tanti processi. Senta, le chiedo questo, appunto, lei ha parlato di default economico, si è parlato della Sicilia che è stata quest'estate, si parlava anche sull'orlo del fallimento, le chiedo questo, l'autonomia siciliana per esempio ha ragione d'essere ancora nel 2013? Quasi. Averebbe di dire no, perché è stato fatto un uso molto plebeo. I soldi dell'autonomia siciliana sono stati utilizzati per organizzare convegni sui Borboni e per inventarsi i modellini gonfiabili del ponte sullo stretto, e poi magari i siciliani avrebbero molta più utilità ad avere la banda larga che il ponte sullo stretto. Ma verrebbe da dire no, però è sì. Verrebbe da dire no, ma io credo che invece l'autonomia siciliana, interpretata in modo virtuoso, possa servire. Per esempio la Sicilia potrebbe diventare in questo senso un territorio pilota, un'avanguardia istituzionale, se decidesse, ed è una delle cose che ci piacerebbe fare se governeremo, mettere all'interno dei propri meccanismi istituzionali una soglia di 3 legislature o 15 anni per i parlamentari, o prevedere... Ah, interessante, per i parlamentari siciliani, lei metterebbe questo, per esempio? Assolutamente sì, ma che non è, come dire, una soglia populistica o demagogica, è una soglia esistenziale, credo che dopo 15 anni di servizio alle istituzioni ci sia necessità non solo di proporre un ricambio generazionale, ma anche di consentire che la politica e la vita non coincidano e che ci siano anche altri stili, altri mestieri, altre professioni. Magari anche tagliare un po' di stipendi della per esempio basterebbe dell'Assemblea regionale siciliana, alla media dei consigli regionali, stipendi che per i parlamentari siciliani, che in nome dello statuto chiamiamo così parlamentari, che invece sono collegati a quelli del senatore della Repubblica. Bisognerebbe mettere un tetto, calmerare le consulenze. Quanto potrebbe essere secondo lei uno stipendio onesto per un parlamentare, per non entrare nella demagogia anticasta, ma anche adeguarsi ai tempi? Grosso modo il 50% di quello che prendono, perché uno stipendio è un'indennità che è legata alla popolazione, alla l'estensione del territorio, quindi insomma, abbiamo esempi. Sì, esempi, potrebbero prendere la metà, potrebbe essere una quota. Sì, poco più della metà, così come potrebbero essere 60 o 70 in funzione della popolazione e non 90. La Lombardia, che ha mi pare quasi 10 milioni di abitanti, ha 70 consiglieri regionali, la Sicilia ne ha 90, li chiama pomposamente deputati, vincola lo stipendio a quello dei senatori e garantisce un tetto di spese per consulenze che nessun'altra regione ha. No, 60-70 fanno Corte bene. Corte dei Conti, che parla di una spesa di 9 milioni di euro per 800 consulenti esterni. Lei mi dice, i consulenti esterni possono anche servire con tutti i dipendenti che ha la regione. E con 20.000 dipendenti e 2.000 dirigenti, cercare 800 consulenti esterni e spendere 9 milioni è troppo. Mi sembra una, come dire, vocazione molto clientelare. Poco questa, infatti, onorevole Fava, è la mia ultima domanda, proprio questa. Si è parlato dei dipendenti della regione, oltre 20.000, e Lombardo ha detto licenziateli voi, io non butto sulla strada nessuno, semmai evitando il turnover, quelli che vanno in pensione non vengono rimpiazzati e col tempo entreremo in una cifra ragionevole. Lei, che viene anche da una storia, appartiene a un partito, Sinistra, Ecologia e Libertà, di sinistra, è disposto a dire sono troppi e vanno licenziati, alcuni di loro vanno licenziati. Il problema non è licenziare, il problema. Quindi lei è d'accordo con Lombardo, non bisogna metterli sulla strada. Utilizzare il modo in cui Lombardo non ha mai utilizzato queste risorse umane. Noi abbiamo 28.000 forestali, abbiamo una terra devastata dagli incendi, abbiamo l'80% del territorio a rischio di dissesto idrogeologico e non uno di questi forestali è stato utilizzato per lavori di prevenzione. Abbiamo 1.200 custodi museali, se lei fosse venuto il giorno di Ferragosto in Sicilia, metà dei musei regionali erano chiusi, quindi il problema non è licenziare, il problema e ristrutturare la funzione del lavoro regionale in modo diverso, un obiettivo diverso, ed evitare anche spese inutili. Per esempio, per legge evitiamo che gli ex parlamentari o quelli che non sono stati rieletti per 2 anni, una proposta che sta facendo anche il Ministro di Grazia e Giustizia, possa essere nominati in enti, associazioni, istituzioni legate alla regione. Ah sì, gli enti dei trombati. Sì. Grandi cimiteri degli elefanti dove andare certo. a svernare in attesa. Però dice utilizzare meglio il personale, ma non si lascia a casa nessuno in questo momento. Non si risolve il problema di 15 anni di malgoverno facendo macelleria sociale, ma si risolve il problema evitando di spendere per 800 consulenti quello che si può recuperare attraverso l'uso delle risorse interne, per esempio. Grazie allora Claudio Fava, in bocca al lupo, ovviamente la seguiremo come seguiremo, abbiamo intervistato Rosario Crocetta, anche gli altri, la campagna elettorale, buona giornata ovviamente. Buona giornata e grazie a voi. Ci sentiremo, ovviamente si voterà poi credo in ottobre, no? Entro il 25 settembre la chiusura della campagna elettorale e la Sicilia andrà a votare a ottobre. Allora 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Tra poco parliamo del Movimento 5 Stelle, ci accusano di non parlarne mai, quando ne parliamo ci accusano a volte di parlarne male, a volte di parlarne bene. Siamo tra i pochissimi che invitano sempre esponenti del Movimento 5 Stelle quando vogliono intervenire da noi. Volesse intervenire Beppe Grillo a fare un'intervista, sarebbe uno scoop clamoroso. Un'intervista vuol dire così, che uno fa le domande e un altro risponde, ecco, questo per dire, chiarire il termine intervista a livello giornalistico, cioè non comizi ma domanda e risposta. E quindi se volesse siamo qua. In ogni caso, per il momento parliamo del fenomeno Beppe Grillo, Movimento 5 Stelle, e anche degli ultimi giorni che sono stati un po' vivaci, con scambi di epiteti, diciamo così. Il giornale mette a pagina 3 Ebetino, Fallito, Salma, Aledanno, Brunettolo, Gargamella e Zombie, Psiconano, Forminchioni, Frignero, Entero Gelmini e vabbè, e poi Rigor Montis, ci sono anche poi insulti veri e propri, sono alcuni degli appellativi che Beppe Grillo ha dato negli anni ai politici attuali. Ora Beppe Grillo dice: mi vogliono eliminare, evocato anche gli anni di piombo, si è alzato lo scontro. Ne vogliamo parlare con il deputato del PD, Mario Adinolfi. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, Adinolfi. Buongiorno, eccoci qua. Tra l'altro ho letto sul giornale che ha vinto 6.000 euro a poker. No, non c'entra nulla però. Sì, è vero, 6.008 per la precisione. 6.008, 6.800 o 6.008? No, 6.800. Ah, 6.800 euro a poker. È un grande giocatore anche di poker, un grande campione di poker. Andrea Scanzi, saluto, buongiorno, del Fatto Quotidiano. Buongiorno a voi. Conoscitore anche profondo del fenomeno Beppe Grillo. Ma che sta succedendo, Andrea Scanzi, a Beppe Grillo? Ha semplicemente in una domenica stantia in cui il dibattito politico era nullo trovato il modo per catalizzare l'attenzione di tutti i media, che infatti ci sono cascati come delle trote all'amo sulla questione di mi vogliono ammazzare, o che è? Che sta combinando? Ma succede che improvvisamente da 4-5 mesi ci siamo resi conto che Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle alle elezioni non avrà una percentuale ridicola come tutti gli osservatori o quasi tutti gli osservatori credevano, ma avrà un 15%, forse anche di più. E allora ogni piccola cosa che scrive, e le scriveva anche un anno fa, solo che nessuno le leggeva nei giornali, fa notizia. È vero che lui ha sempre avuto dei toni molto alti, è vero che utilizza sempre dei toni più simili a quelli del comico irriverente che non al politico, e questo per una stampa e per un osservatorio abbastanza abituato alla noia è stupefacente, perché basta utilizzare Psiconano e automaticamente partono qualsiasi tipo di insulte, qualsiasi tipo di eresia e di scomunica. È anche vero che ad agosto in particolare Beppe Grillo è particolarmente provocatorio, proprio perché, come dicevi prima, è un momento in cui non si parla di nulla e basta poco per attirare l'attenzione. Nello specifico battuta, qualcuno dice anche perché il sole picchia, però vabbè, questa è una battutaccia. Per carità, può anche darsi quello. Io due cose mi sembra di notare negli ultimi giorni. La prima è che questa polemica totale e continua tra Partito Democratico e Grillo, alla lunga, da un punto di vista anche soltanto di intelligenza e di bella immagine, fa male a entrambi. Sicuramente fa male al PD e all'oligarchia del PD, perché non sa minimamente replicare a Beppe Grillo. Se tu vai a scontrare Beppe Grillo sul piano dell'insulto, sul piano della battuta, sul piano anche della battutaccia, perdi, è chiaro che Grillo batte Bersani 6-1, 6-1, 6-0. ma non mi sembra che anche Grillo negli ultimi giorni abbia dato il meglio di sé. La polemica con Benigni era bassa bassa bassa e secondo me ne è uscito Roberto Benigni ne è uscito meglio. La seconda cosa, questo martirologio che lui ha fatto qualche giorno fa, addirittura richiamando anche gli anni di piombo, secondo me è stato eccessivo. Dopodiché è innegabile che Beppe Grillo una qualità l'ha avuta in questi anni, è riuscito a farsi odiare da tutti. Io non credo che rischi la vita, non lo voglio neanche pensare. Ma di sicuro se il centro-sinistra e il centro-destra potessero eliminare politicamente, sottolineo politicamente, un elemento, secondo me eliminerebbero lui. Questo è sì, per esempio Maria Dinolfi, lei che ha seguito tutto il Partito Democratico anche col travaglio interiore, non è una voce allineata, se si può utilizzare questo termine, all'interno del Partito Democratico ad Inolfi, però oggi il Fatto Quotidiano per esempio titola questo: PD e Grillo, Grillo comunque uno del terrore del PD, è così? Beh, sicuramente Grillo è un forte concorrente sull'elettorato potenziale del Partito Democratico, questo senza dubbio. Io credo di averlo sottolineato in tempi non sospetti, forse fin dal prima del V-Day del 2007. Se lo avessimo fatto candidare alle primarie del 2009 probabilmente lo avremmo costituzionalizzato, lui chiese la testa, insomma, in quel momento si poteva costruire un ponte di dialogo reale per portare questo fiume dentro il più ampio confine del Partito Democratico. Non è stato fatto questo, ora Grillo ha oggettivamente una sorta di ossessione nei confronti del PD, perché Andrea ha citato alcuni elementi, ma l'attacco ieri a Renzi è totalmente gratuito. Che ha detto Renzi ogni giorno nei confronti dell'esponente del Partito Democratico, di essere un sindaco, di essere Bersani. Ora, fare quel tweet ieri in cui Grillo dice, usando la battuta di forte braccio, che Renzi è nessuno, è veramente totalmente gratuita come cosa, insomma, perché Renzi si possono avere tutte le opinioni nessuno non è. No, ho capito, ma non è una battaglia politica, cioè Grillo è sceso nel lagone politico, almeno non l'ha insultato, voglio dire, nel senso, no, ha fatto la battuta, ha citofonato, ho aperto, non c'era nessuno, era Renzi. Insomma, che... è un po' darti del nessuno non è proprio un complimento, ma comunque quello che mi interessa è la gratuità del gesto. Perché, cioè, la domanda che io faccio è: perché Grillo ogni giorno in questa fase, e ve lo dice uno che è stato sempre un parasimpatizzante del 5 Stelle, deve avere come unico obiettivo un dirigente del Partito Democratico? Non leggo cose su Berlusconi scritte da Grillo da mesi, ma perché? Forse ha capito che è lì che deve pescare, che può pescare più voti. Forse quindi ha capito che c'è un'efficacia di quella comunicazione, però a quel punto non puoi fare il post sui 2 minuti d'odio quando hai scatenato l'odio tu. Insomma, cioè, è chiaro che c'è qualcosa, oggi lo scrive bene Francesco Merlo, vedo che citate i giornali, oggi su Repubblica c'è un bell'articolo di Francesco Merlo su una sorta di cortocircuito che è partito. Detto questo, io ho rimproverato anche Bersani quando ha usato l'espressione pirla, insomma, meno quando ha parlato di linguaggio fascista, perché in questo, anche se inconsapevolmente, perché Grillo ovviamente non è un fascista, né mi sognerei mai di dare del fascisti a quelli del 5 Stelle, ma inconsapevolmente una forma di tic totalitario da questo punto di vista nel linguaggio l'ha avuto. Anche perché se ti dai uno del linguaggio fascista vuol dire che tu ti legittimi come comunista, no? O se dobbiamo... No, il linguaggio fascista tendenzialmente è il linguaggio che tende a demolire l'avversario usando un frasario totalmente legato a un immaginario che non è collegabile alla realtà. Insomma, chiaro, se tu dici zombie a uno non è che stai usando una dialettica di tipo politico classico, insomma, stai usando il fascismo del 19, insomma, in cui si attaccava l'avversario usando questa sorta di satira a tinte foschissime, insomma. Secondo me queste formule possono essere tolte dal linguaggio di Grillo con analoga efficacia, perché io sono convintissimo dell'efficacia della comunicazione su Grillo. Quando avete elencato tutta quella sorta di domignoli, fanno parte di un frasario della rete che è abbastanza normale. Anche su Dago Spia trovate quello stesso tipo di domignoli. Il tema che è interessante non è il linguaggio forte, non mi spaventa, è quando la dimensione politica del confronto si appiglia solo all'insulto. Allora a quel punto secondo me si è andato su un passaggio oltre e non fa bene a nessuno, perché la campagna elettorale è molto lunga e gli italiani... No, ma è chiaro, infatti con questo con questo tenore dove arriviamo se partiamo da qui? Sentiamo anche... Ricordo sempre che comunque agli elettori del centro-sinistra dal premier e leader del centro-destra venne affibbiato un nomignolo anche lì non carino, insomma, nella scorsa campagna elettorale, che fu quel famoso coglione. Quindi vorrei evitare che si arrivasse veramente a tirarsi gli stracci. Toni così. Ma guarda, vediamo che il tema un po' è quello e già un po' ci siamo. Guardi che già siamo a buon livello, purtroppo, o a pessimo livello. Maurizio dalla provincia di Chieti, 800 24 00 24. Sentiamo Maurizio, buongiorno, che ha da dirci. Buongiorno a tutti. Dica. Dottor Mila. Senta, io vorrei fare una premessa. In Italia se esiste il fenomeno virile perché non esiste una politica degna di questo nome. Questo è chiarissimo, cioè allora, l'abbiamo detto in tutte le salse, il successo di Beppe Grillo è direttamente proporzionale al fatto che i partiti politici godono di un consenso minimo, ai minimi storici, e quindi Grillo raccoglie i consensi. Maurizio, prego. Sì, vorrei fare una semplice domanda: perché in Italia esiste un potere senza data di scadenza? Cioè, perché ci sono alcuni uomini politici, ma non soltanto i più in vista, che fanno della politica un mestiere. E perché non c'è un limite ai mandati, per esempio? Esatto. Ecco, perché negli Stati... Lei mi chiede perché? Perché è così? Che domanda da $1 milione. Perché negli Stati Uniti, per esempio, i presidenti degli Stati Uniti dopo due mandati nessuno si ricorda più di George Bush Senior o George Bush Junior? E qui abbiamo personaggi che... Quindi lei approva quando Renzi dice tre mandati e via, approva questa cosa. Mi sembra giustissimo, perché guardi che dopo due mandati, bravo o non bravo che sei, vai a casa, vai non a è casa. Che puoi stare lì tutta la vita, cioè devi dare. E questo è uno dei punti di Beppe Grillo del movimento. Grazie, ma Maurizio, dalla provincia di Chieti. Silvia da Bergamo, buongiorno, ci ha chiamato. Ecco. Sul dischettone sto scaricando la macchina. No, prego, faccia pure. Allora, dunque, non voterei mai Grillo, va bene, non dico di che di che tendenza politica sono, vabbè. Può dirlo. Comunque in ogni caso, vai, centrodestra, ma vabbè. Non è questo il punto. Il punto è che Grillo è la creatura di quei signori che adesso lei ha ospiti. Andrea Scanzi sicuramente no, che è un giornalista. L'onorevole Adinolfi secondo me sta già fibrillando, ma tra parlo poco dei politici, dei politici in generale. Sì, certo, dei giornalisti, ma anche un po' dei giornalisti. Anche un po' di loro. Un pochino dei giornalisti, ma soprattutto dei politici. È una loro creatura, se la sono curata da tutti questi anni, diciamo virtualmente o non formalmente, ma un personaggio del genere è ovvio che ha trovato questo bellissimo terreno fertile. Io non voterò Grillo, ma non voto nessuno, questo è il problema. Ah, ecco, quindi è tendenza centrodestra, ma non voto nessuno. Grazie, no, Silvia. No, io non voto nessuno, quest'anno non voto. Non voto, vabbè. No, assolutamente, vada chi va, tanto è uguale, mi creda, sarò qualunquista, ma tanto è uguale. Va bene, grazie Silvia da Bergamo. Andrea Scanzi e poi onorevole Adinolfi. Allora, Andrea, qui i due ascoltatori, vabbè, non so perché non c'è un limite ai mandati, io non so rispondere a questa domanda, è la cosa che vorrebbero tutti in Italia. Ma vorrebbero tutti, in realtà prima di tranne Grillo, qualcuno. Prima di Grillo secondo me non ne parlava nessuno, adesso ne parla molto Grillo, parla molto Renzi. È vero quello che hanno detto i due radioascoltatori, soprattutto il primo, è qualcosa di sconcertante ed è qualcosa che agevola nell'ascesa del voto. Cioè, nella Spagna Zapatero ha perso ed è scomparso, in terra Blair ha perso ed è scomparso, da noi io domenica, due giorni fa, leggevo sull'Unità, ancora devo essere costretto a leggere Massimo D'Alema che recensisce il libro di Walter Veltroni e conseguenti poi polemiche e dibattiti. Però giustamente un paio di ascoltatori ci fanno sapere via SMS, dice vabbè, però Ted Kennedy per esempio, senatore a vita, sì, praticamente per tutta allora, la vita. Ma infatti il discorso non è tanto necessariamente la datazione, perché se uno è bravo può anche durare 40 anni. Il problema è che qui non abbiamo De Gasperi, cioè qui abbiamo personaggi come D'Alema o Veltroni che hanno disboscato il centro-sinistra e lo hanno devastato dalle fondamenta. Se uno sbaglia in qualsiasi azienda se ne va. Il centro-sinistra, devo dire purtroppo, più del centro-destra, appare in questo senso totalmente seduto, e credo che uno come Maria Dinolfi lo possa confermare più di altri, perché questa battaglia la sta facendo. Su altre due piccole cose che ho sentito prima velocemente, sul linguaggio di Beppe Grillo mi piace l'immagine dell'involontariamente fascista, secondo me l'analisi di Mario è molto corretta ed è anche più calibrata di altre. È anche vero che secondo me negli ultimi tempi la battuta gli esce meno, secondo me il suo è più che altro linguaggio da cazzaro, però il cazzaro deve essere in forma, se non è in forma fa delle derapate, dei testacoda involontari. Tipo quello di domenica. Esatto, mi piace meno però quando magari gli stessi osservatori un giorno gli danno del fascista, il giorno dopo del neo-giacobino e il giorno dopo dicono noi siamo democratici e voi no. Questo snobismo che hanno alcuni osservatori, faccio un nome, Repubblica come giornale, nei confronti non solo di Grillo ma di tutto il Movimento 5 Stelle, mi piace poco. E secondo me aiuta il Movimento 5 Stelle a fare la parte del martir e a dire voi siete snob ma noi siamo il nuovo. Quindi ma su questo me però, anche Adinolfi, allora una domanda, quanto c'è di timore all'interno del Parlamento di quello che ha detto l'ultima ascoltatrice, Silvia da Bergamo, che dice io non voterò nessuno e la colpa di un Beppe Grillo che ha trovato terreno fertile è vostra come qua, se lei è rappresentante della classe politica in questo momento. Mi prendo volentieri diciamo, anche se Adinolfi è uno di quelli che esatto, essendo deputato da due mesi, essendo stato uno che sta più sulle palle alla casta di me, appunto, diciamo, però in questo però, momento vabbè, si accolla diciamo questo ruolo la casta. A Silvia dall'ascoltatrice di Bergamo dico non rinunciare mai al voto, anche se vai a votare centrodestra, perché non c'è nessuna paura nel palazzo per l'astensionismo. L'astensionismo semplicemente porterà il numero di votanti alle politiche magari dall'80% tradizionale al 70%, sì. Ma credete che cambi qualcosa in questa maniera? Anche perché non è che il presidente americano viene scelto dal 100% degli americani, a volte vanno a votare il 60%. La scelta astensionista è semplicemente una scelta folle. Qui esisteranno molte opzioni in campo alle prossime elezioni, esisterà un'opzione riformista di centrosinistra, esisterà un'opzione di centro, esisterà l'opzione diciamo di alternativa al sistema rappresentato da Grillo, esisteranno delle opzioni di centrodestra, esisterà l'opzione federale territoriale del nord della Lega. Davanti a queste opzioni io penso che insomma ci sia il ventaglio per poter operare delle scelte. Poi qual è la risposta che in realtà vuole sentirsi dire Silvia? Che noi facciamo tutti schifo più o meno e quindi il rifiuto è totale. O forse, forse arriva a dire fate tutti schifo perché ha visto l'inconsistenza della proposta politica degli ultimi anni. Cioè arrivare a dire fate tutti schifo. Mi sento di negarlo. Negarlo. Allora io adesso facendo veramente il parlamentare, voglio dire che negli ultimi mesi, secondo me, questo sistema tanto malandato ha dato un colpo di reni non insignificante. Ma su che? Insomma. Ma su che? Non so, la riforma elettorale. Il fiscal compact, tanto per dire una cosa, ho votato un provvedimento che forse non è stato percepito, ma è epocale. Cioè, noi ci ridurremo il debito pubblico di 45 miliardi all'anno e secondo me questa è una scelta di responsabilità su cui mi sono attirato critiche infinite anche dal mondo grillino, queste cose ovviamente, però insomma sono cose estremamente concrete. Sa cosa, i temi che la gente percepisce magari erroneamente come quelli importanti, non so, il taglio dei parlamentari più volte promesso anche ma sei mesi fa, fregnacce, però gli italiani col taglio di 200 parlamentari non cambia nulla, poi andrebbe strafatto e mi sono battuto tutta la vita. Voglio fare una precisazione anche a Scanzi, prima di Grillo nel 2007 io mi sono battuto per mettere nello statuto del PD, sono stato uno dei 100 che l'hanno scritto, limite ai mandati. E infatti l'abbiamo messo. E infatti chi lo rispetta? Chi lo rispetta? Ci sono le deroghe. Dobbiamo farlo rispettare, poi bisogna battersi politicamente, per questo dico a Silvia che rinunciare alla politica è sempre un errore. Ma ci sono le deroghe. Bisogna battersi contro i cattivi, diciamo così. Sì, ci sono le deroghe ad Adinolfi, i limiti ai mandati. Battaglia contro le deroghe. Ma nulla è facile in politica, non è che arriva uno con la bacchetta magica e risolve. Siamo passati dai partiti con i leader e i deputati inamovibili a un partito che ha scritto nello statuto del 2007 che c'è un limite a 3 mandati, prima del V-Day, diciamo così, insomma. Ora sarà tutto limitatissimo, ma è un primo strumento per fare battaglia, e noi che siamo un pochino più sensibili a questo tema daremo battaglia, poi vinceremo, perderemo, non lo so. Questa insomma, è la politica. La battaglia politica è importante per cambiare le cose, rinunciare a questo è un errore gravissimo. No, questo sì. Allora Gianfranco da Livorno, ce la fa in 20 secondi, visto che è stato io? No, sì, cerco cerco di farcela, cioè, lasciando dietro tutte le polemiche, tutte le stronzate che si dicono, cominciando da quelle che sta dicendo Adinolfi. Vabbè, comunque, adesso però non io esagero. Voterò Grillo, però non perché mi è simpatico Grillo, soltanto perché desidero far conoscere alla classe politica esistente che c'è una parte di cittadini che non condividono il loro atteggiamento che è di guerriglia tra le varie fazioni, vedi Renzi e Bersani, e nel centrodestra lo stesso c'è il famoso La Russa, l'avvocato che è contrario Vabbè, non faccia l'elenco, lei voterà Grillo. Grillo per lei è l'unica scelta. Se proprio dovessi all'ultimo momento dovessi trovare qualcosa di nuovo, come la nuova legge elettorale, che non la vogliono fare tutte e tre, cambierà idea. Cominciando vabbè, da ma lei stronzate, imbecilli, adesso finendo a Casini. Vabbè, Gianfranco, le avevo chiesto 20 secondi, diciamo. Abbiamo capito, lei voterà Grillo, poi si è lasciato un po', ha trasceso un po' nel linguaggio di Grillo. Io ringrazio tutti, seguiteci su Twitter, seguiteci su Facebook, insomma quella roba lì, e ricordatevi di non chiedere a Ciriaco De Mita perché ha la scorta. Ma perché ha la scorta De Mita? Se me l'hanno data vuol dire che una ragione c'è. Vorrei che si avesse nella memoria che io sono stato presidente del Consiglio. Sì, ho capito, ma perché la scorta ancora Ciriaco De Mita? Parla come se fosse il pubblico ministero. Questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. E vabbè, a domani. I parlamentari sono come i cinesi, sono tutti uguali.